Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo una storia particolare, una storia che parla di coraggio, di tenacia, di sacrificio. È la storia di un uomo che aveva tutto e di colpo ha perso un bene che in nessun modo è possibile riacquistare. Un uomo che ha perso la vista e da cieco ha imparato a combattere guardando la vita e il mondo che lo circondava con gli occhi del cuore, dando vita a un'associazione che in meno di un secolo ha radicalmente trasformato la vita di tanti non vedenti, migliorandola. Oggi raccontiamo la storia del fondatore dell'Unione Italiana Ciechi, Aurelio Nicolodi. Primo aprile, come oggi, 1894, Trento, questa è la data di nascita di Aurelio Nicolodi. La città e la regione circostante non fanno ancora parte dell'Italia, quello che oggi è il Trentino Alto Adige in quell'epoca era ancora parte dell'impero austro-ungarico. E mentre la maggior parte della popolazione di lingua tedesca risiede nella parte settentrionale della regione, dove si trova Bolzano, il Sud Tirolo, gli abitanti di Trento sono per la maggior parte di lingua italiana. Nicolodi fa parte di una famiglia benestante, per questo ha la possibilità di lasciare la città, quindi il territorio austriaco, per frequentare le scuole superiori, un diploma di geometra e poi la frequentazione di certi ambienti intellettuali e politici, il circolo degli irredentisti, li chiamano così, ne fa parte peraltro anche un suo compagno di scuola, Cesare Battisti, uno degli eroi della riunificazione del Trentino Alto Adige all'Italia. Siamo nel 1915 e l'Italia è spazzata da venti di guerra. Tutto il mondo sta vivendo la prospettiva di una guerra che ci sarà. E lui non ci pensa due volte. Richiede e ottiene la cittadinanza italiana e si presenta come volontario nel Regio Esercito Italiano. Nell'autunno-inverno del 1914 frequentai un corso per allievi ufficiali. Fui nominato sottotenente poco prima dello scoppio della guerra e fui tra i primi a partire per il Carso. Era il 24 maggio del 1915. Nicolodi ha solo 21 anni, vanta un curriculum invidiabile per la sua età. È diplomato, è iscritto all'università, è ingegneria, è già stato in Belgio, in Francia, ha addirittura avuto un'esperienza di lavoro in Argentina. Una domenica di luglio è di servizio sul Monte Sei Busi, a pochi chilometri dal punto dove circa 20 anni dopo sarebbe stato realizzato il sacrario di Re di Puglia. Sull'Isonzo si combatteva da giorni, presto si sarebbe arrivati a Caporetto, alla disfatta di Caporetto. Improvvisamente scoppia una granata. L'esplosione colpisce in pieno viso Aurelio Nicolodi, si accascia ferito, le cure sono immediate, però si combatte ancora e il giovane sottotenente trova la forza di continuare, di dare ordini ai suoi soldati nella trincea per respingere gli attacchi del nemico. Poi il buio avvolge per sempre i suoi occhi. Basta un solo attimo per cambiare una vita, distruggere progetti, per cambiare le prospettive. Immaginate un giovane uomo che improvvisamente si trova in un mondo completamente nuovo e i colori, le forme, le dimensioni entrano a fare parte della sfera dei ricordi e sono destinati con gli anni a modificarsi, a deteriorarsi, a perdersi nella memoria. Aurelio riceve la medaglia al valore per i suoi atti di eroismo durante la battaglia, però sa benissimo, insomma, che nessun premio, nessuna onorificenza potrà restituirgli quello che gli è stato tolto. Lasciatemi stare! Non mi toccate gli occhi, vi dico! Non mi toccate! Guadagna bene a fare il cieco, ecco perché. Se ci vedesse che gli darebbe più niente. Ma che volete? Sto fermo! Non toccatemi! Poi ci ringrazierà. Non mi toccate, non vi ho detto. Non che vogliamo farti del bene? No! Maestro, quest'uomo non può vedere. Ha accettato la sua vita così, perché cambiargliela? Quest'uomo vive nelle tenebre. Calmatevi! Ma finché sarò sulla terra, no, no, non voglio. Sarò la luce del mondo. Questa è una scena tratta dal Gesù di Zeffirelli, il cieco nato che chiede l'elemosina ai bordi delle strade, deriso, umiliato dalla gente. Ed è una cosa che noi pensiamo potesse accadere solo in passato, ma quando Aurelio Nicolodi perde la vista, siamo nel 1915, e la società civile continua a considerare i ciechi delle persone inutili, inferiori, menomate fisicamente e per una strana deduzione menomate anche mentalmente. Tra l'altro l'Unione Italiana Ciechi, che insiste perché si usi la parola cieco e non la più ipocrita non vedente, quella di cui poi parleremo molto dell'Unione Italiana Ciechi, comunque lì si pensa ancora che il cieco non sia in grado di imparare un mestiere, di studiare. Esistono istituti dove i ciechi sono mantenuti ai margini della società, in locali bui, maleodoranti, tanto non serve tenere le finestre aperte, no? E i libri scritti in Braille sono pochissimi, ricordate, ne abbiamo già parlato di Braille. L'educazione dei più giovani si limita a qualche lettura fatta da insegnanti improvvisati, l'apprendimento della musica che viene insegnata con il solo fine di creare una scusa per l'accattonaggio. Cecità e accattonaggio sono stati così strettamente uniti che ci sentiamo vagamente responsabili dell'abbandono morale in cui i ciechi furono lasciati. Le prospettive di vita di un cieco nato erano parificate a un lento scandire del tempo in attesa della propria sentenza di morte. Eh sì, i ciechi agli inizi del Novecento hanno due possibilità: o vivere la vita della strada, suonando, non so, un organetto, chiedendo l'elemosina, oppure vivere in un istituto dove si è trattati come malati, in un limbo fisico, culturale che porta alla morte. E Aurelio Nicolodi non ci sta, vuole cambiare le cose, un colpo d'ala non solo per sé, ma per tutti. Il falco e il gabbiano. Subito dopo aver perso la vista, Aurelio Nicolodi si rende conto di quanti dettagli sonori la vita offre ogni giorno. Dettagli che uno che ci vede bene non coglie: i rumori, i profumi, le variazioni di temperatura, le incertezze, i diversi toni della voce. Io per esempio ho avuto nella band, in tournée, un ragazzo che conoscete bene, si chiama Leandro Baldi, col quale ho passato un sacco di tempo cercando di percepire il mondo come lo percepiva lui. Notavo quanti dettagli che a me sfuggivano in lui erano chiari. Se provate, ma qualcuno l'avrà fatto sicuramente, a sedersi, non so, su una panchina, a chiudere gli occhi, a concentrarsi, si sentono una serie di cose: passi, voci, canti di uccelli, il rumore del vento, che normalmente ti sfuggono. E questo è un esercizio che il cieco affronta ogni giorno, è il suo modo per interagire con il mondo che percepisce in maniera diversa. E lui è diventato cieco, peraltro, non è nato così, quindi il mondo lo conosce, lo ricorda. Quando sente il rumore di una bicicletta, di un pallone calciato da un bambino, lui la riconosce questa scena perché ricorda ciò che ha visto. Un cieco nato non ha questo vantaggio, quindi in qualche modo è avvantaggiato, in qualche modo invece è comunque penalizzato, perché non sa di cosa si parla se uno dice rosso, giallo o cose di questo genere. La mia cecità non mi aveva suscitato alcuna particolare inclinazione per le arti melodiche. Modesto orecchiante ero e modesto orecchiante rimanevo. Il mio interesse declinava verso un buon testo di sociologia. Di fatto, la cecità mi aveva lasciato con gli stessi gusti e interessi di prima, ma aveva accentuato i miei sensi. Stiamo parlando di un mondo in cui le persone vedenti decidono cosa sia meglio per un non vedente, una condizione intollerabile. E ricordiamo che il nostro protagonista, Aurelio Nicolodi, in quel momento ha 21 anni, quindi vuole vedere, se così si può dire, il proprio futuro con occhi completamente diversi. L'esistenza mi si profilava come un corridoio tetro dove un lavoro manuale, qualche strimpellata, avrebbero dovuto costituire tutto il mio bagaglio di attività. Sentivo quanto ciò fosse inconcludente e assurdo, ma comprendevo di trovarmi di fronte a forze ben cementate, pregiudizi, a priorismi, una società che aveva una totale incomprensione della cecità. Aurelio non ci sta e a gennaio del 1917 a Firenze fonda l'Associazione Nazionale dei Ciechi di Guerra, che si fonde con l'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra. È il primo passo per cambiare le cose. Intanto lui riprende gli studi, rinuncia alla facoltà di ingegneria e riesce a laurearsi in economia e commercio, ottiene l'abilitazione all'insegnamento, conosce una ragazza e la sposa, insomma vive una vita normale, diventa l'esempio di come la disabilità possa convivere con le abitudini di vita di tutti. Il suo motto è: non esiste il cieco, esiste la persona. A Firenze Aurelio Nicolodi si dedica anima e corpo all'attività dell'associazione, parla con le persone e viene a conoscenza di tutti i pregiudizi nei riguardi dei ciechi, che spesso affondano le radici nell'ignoranza o comunque nell'avidità, cioè nella voglia di non spartire la torta con chi si pensa non avrebbe più il diritto. Mi misi in relazione con molti ciechi, avido di conoscere nel più breve tempo possibile il loro pensiero e le loro esperienze, e così allargare il campo delle mie. Era, per esempio, opinione diffusa che da un cieco i figli dovessero nascere ciechi, come se le ferite fossero trasmettibili, e che spesso erano le famiglie le prime a remare contro la rieducazione e la possibilità di lavorare, perché temevano in una diminuzione o in una revoca della pensione. È già la pensione. Per molte famiglie l'invalidità di un familiare è un reddito a cui non si può rinunciare a costo di tenerlo il più possibile ai margini della vita. Questo atteggiamento temo sia presente ancora oggi, anche perché anche il nostro protagonista, Aurelio Nicolodi, percepisce una pensione di invalidità. Come cieco di guerra avrebbe potuto utilizzare i proventi della sua pensione e poter fare una vita tranquilla, agiata, con la moglie e con i suoi figli. Invece ha deciso di dedicare la sua vita ai ciechi in generale, ai ciechi civili, portandoli via dalle strade, offrendo loro una prospettiva di istruzione, di lavoro, di assistenza. Per noi è una pietra miliare nella storia della emancipazione civile e sociale dei ciechi. E questo era Mario Barbuto. Mario Barbuto è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e le sue parole ci aiuteranno a raccontare questa storia. Lui è un non vedente e questa è una delle prime conquiste per cui Aurelio Nicolodi lotta fin dall'inizio: togliere la guida di un ente che difende gli interessi dei ciechi dalle mani di un qualunque burocrate e porre alla guida un cieco, uno che sappia di cosa si sta parlando, che abbia la perfetta conoscenza della situazione in cui vivono gli appartenenti all'associazione stessa. È impossibile giudicare lo stato di cecità con una mentalità di vedenti. La soluzione dei problemi della cecità è di esclusiva competenza dei ciechi. Organizzare i ciechi significa unire uomini accomunati soltanto dalla mancanza della vista, ma ciascuno in sé diversissimo per livello sociale, cultura, aspirazioni, possibilità e mentalità. E così, dopo appena un anno dalla sua fondazione, Aurelio Nicolodi prende le redini dell'associazione, ne diventa il direttore effettivo. E poi nel 1920 l'associazione Invalidi, che esisteva già prima, si trasforma in Unione Italiana Ciechi e Nicolodi ne diventa il primo presidente. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Aurelio Nicolodi, il fondatore dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. È un uomo che durante la Prima Guerra Mondiale, un ragazzo allora, aveva perso la vista in seguito all'esplosione di una granata. Uno che inizia veramente a vedere il mondo con occhi diversi, non è un gioco di parole, inizia una battaglia vera per restituire dignità a persone che a causa della loro disabilità sono relegate ai margini della società. Abbiamo intervistato Mario Barbuto, che è il presidente dell'ente con il quale stiamo raccontando un colpo d'ala, un colpo che ha aiutato, continua ad aiutare le decine di migliaia di ciechi che vivono nel nostro paese. Parliamo appunto di elemosina all'angolo delle strade o, nella grande maggioranza dei casi, di persone segregate in casa senza alcuna speranza né di presente né di futuro. E per ridare una speranza, per restituire la dignità ai ciechi, bisogna far sì che possano contribuire al bene del paese. L'unico modo per farlo è ottenere un facile accesso all'istruzione, un altro facile, un successivo inserimento nel mondo del lavoro. Siamo nel 1920, in Italia i ciechi sono 35.000, Di questi solo 8.000 sono considerati abili al lavoro. La principale occupazione dei non vedenti è quella di insegnanti negli stessi istituti che li hanno ospitati da bambini, e la retribuzione è un decimo di quella di un normale insegnante. Insomma, sono tutte condizioni veramente inaccettabili che vanno cambiati. Il congresso di Genova sancisce la nascita dell'Unione Italiana Ciechi e ha fissato anche in quel momento i suoi principali obiettivi. Il programma esposto al congresso si può riassumere in 5 punti: diritto all'istruzione per i fanciulli, piena capacità di azione per gli adulti, diritto al lavoro per gli abili, previdenza per tutti, assistenza per i vecchi e gli inabili. Questo è un programma di welfare che è avanti di mezzo secolo, perché Aurelio Nicolodi è un uomo che sa guardare lontano e si impegna non solo per il presente ma per il futuro, per restituire dignità a esseri umani che fino a quel momento erano stati pesantemente discriminati. E per quanto riguarda il mondo del lavoro, le barriere più grandi sono quelle relative all'inserimento dei lavoratori ciechi nelle aziende, perché i datori di lavoro si pongono con un atteggiamento prevenuto, direi, ai limiti del razzismo. Eppure ci sono lavori che un cieco può svolgere liberamente, come rispondere a un centralino. Ma questo non basta, Aurelio Nicolodi, bisogna usare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima. Negli anni 30, quando sembrava assolutamente inimmaginabile che dei ciechi potessero essere collocati in posti di lavoro, e Nicolodi disse: se gli imprenditori non sono in grado di accogliere i ciechi nelle aziende, creiamo noi le aziende per dare il lavoro ai ciechi e anche ad altri. Aurelio Nicolodi è un eroe di guerra, ha conquistato una medaglia al valore. Noi siamo negli anni 30, nel pieno del governo di Mussolini. Mussolini esalta la patria e gli eroi che la difendono, e quindi è facile per Nicolodi trovare nella politica un interlocutore che abbia voglia di ascoltare, perché il rispetto nei confronti degli eroi di guerra è superiore alle prevenzioni. Quindi Nicolodi ha creato l'Ente Nazionale di Lavoro per Ciechi e in meno di 7 anni fa assumere oltre 1.000 operai, per la maggior parte ciechi. In questo modo gli operai vengono inseriti nei cicli di produzione di fabbriche e di opifici secondo le loro capacità, al fianco di persone vedenti. Non solo non ci siamo messi alle dipendenze dei vedenti, ma li abbiamo assunti nei nostri opifici. Invece di chiedere lavoro, abbiamo offerto una parte del nostro. Ed ecco il secondo grande colpo d'ala di Aurelio Nicolodi, perché dopo aver creato l'Unione Italiana Ciechi e aver ridato dignità sociale ai non vedenti, ecco che con l'Ente Nazionale di Lavoro per Ciechi si restituisce ai ciechi una collocazione attiva nella società, in modo da poter collaborare allo sviluppo del paese e contemporaneamente riprendere un posto all'interno della società. Furono create delle aziende che per tutti gli anni 30 e 40 lavorarono al servizio anche dello Stato, delle forniture militari, eccetera, nelle quali molti ciechi trovarono occupazione e nelle quali anche tante persone vedenti, diciamo, normali, trovarono occupazione accanto ai ciechi. Questo fu una grande palestra di vita poi per cominciare a fare invece un discorso più, ovviamente, più moderno, più attuale, che era quello della collocazione dei ciechi nei posti di lavoro normalmente, come oggi avviene. Poi però scoppia la guerra e la maggior parte delle produzioni industriali vengono riconvertite all'utilità bellica, e le mani dei ciechi cominciano a assemblare parti di munizioni e di armi. La loro collocazione continua anche negli anni di guerra. In questo periodo poi ci si rende conto che i ciechi possono anche essere più utili dei vedenti per determinate operazioni di guerra. Erano volontari, però i ciechi si erano presentati anche loro per dare il loro contributo, insomma, allo sforzo bellico, e c'era il cosiddetto aerofonista, cioè una persona dotata di uno strumento tipo telefonico attraverso il quale avrebbe dovuto, ma sembra che spesso ci riuscissero, avrebbe dovuto riconoscere dai motori degli aerei in avvicinamento la distanza, la direzione dove si stavano recando, e anche se erano appunto amici o ostili, insomma. E poi sempre negli anni 30 partono altre iniziative sempre protette, incentivate dal regime, iniziative che oggi sono diventate parte integrante dell'attività dell'ente. Il libro parlato, per esempio, c'è un'associazione che si occupa della registrazione audio di libri e volumi per consentire un accesso più facile ai capolavori della letteratura. E poi la scuola per cani guida, no? Oggi sembra normale, ma allora non lo era. Cani guida che diventano gli occhi per i non vedenti, un fedele compagno della persona a cui i cani vengono assegnati. E poi, grazie a molte campagne di sensibilizzazione, viene ridotta la cecità infantile. Insomma, grazie all'iniziativa di Aurelio Nicolodi e all'appoggio del regime per i ciechi in Italia si prospetta un mondo migliore. Se è vero che le principali conquiste di Aurelio Nicolodi si sono concretizzate nel periodo tra le due guerre mondiali, quindi con l'appoggio di Benito Mussolini, è anche vero che queste stesse conoscenze politiche diventano a questo punto un'arma a doppio taglio, perché con la fine della guerra nascono accuse di collaborazionismo che portano Aurelio Nicolodi verso le dimissioni dalla presidenza dell'Associazione Italiana Ciechi. E lui si ritira a Firenze, dove continua a lavorare nell'ufficio del Comitato per i Ciechi di Guerra fino al 27 ottobre del 50, quando si spegne colpito da un tumore. Oggi l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è una struttura solida che continua l'opera iniziata da suo fondatore. L'impegno è sempre quello: dare dignità ai ciechi e fornire un supporto per un inserimento nel mondo del lavoro. Il mondo del lavoro è una sfera, diciamo, difficile per tutti. Oggi c'è una grandissima competitività, c'è molta aspettativa, c'è molta richiesta e poca offerta, e quindi c'è una competizione selvaggia. Questo ovviamente danneggia le persone che hanno condizioni di partenza più svantaggiate, come le persone con disabilità, come i ciechi. Oggi le principali occupazioni in cui i ciechi possono lavorare esattamente al pari delle persone vedenti sono quelle di operatori telefonici, operatori nel mondo della comunicazione, fisioterapisti. C'è anche una nuova occupazione che in questi ultimi anni ha acquistato sempre più peso nella nostra società, quella di interprete forense, quella persona che si pone all'ascolto e trascrive sui computer, oggi peraltro sempre più accessibili ai non vedenti, le famose intercettazioni telefoniche. Ma visto che noi, oltre a raccontare le vite straordinarie come quella di Aurelio Nicolodi, ogni tanto amiamo anche lanciare qualche piccola provocazione, abbiamo fatto un'ultima domanda al presidente Mario Barbuto, perché oggi vediamo nei telegiornali, su internet, ciechi che vanno a fare la spesa, che guidano, giocano a golf, fanno partite di tennis. Insomma, gli abbiamo chiesto cosa pensa l'associazione di quei falsi invalidi che vengono scoperti e che intanto stanno percependo la pensione per la loro millantata cecità, pensione che paghiamo noi. Per noi ogni falso invalido è una persona che danneggia e colpisce gli interessi dei veri invalidi. Quindi per noi sono i nemici numero uno. Rispetto ai falsi poi c'è un'altra domanda che noi ci siamo sempre fatti e che bisognerebbe farsi. Possibile che non si cerchi mai di perseguire chi ha certificato la falsa invalidità? Accettiamo anche presso le commissioni mediche, presso chi dichiara i falsi invalidi e li mette in condizione poi di poter fruire delle agevolazioni pensionistiche. Eh sì, è un interrogativo che speriamo trovi una risposta da parte delle forze dell'ordine, ma soprattutto da parte dei magistrati, perché le forze dell'ordine le persone le arrestano, sono gli altri che poi spesso le mandano fuori. Persone che ogni giorno lavorano per eliminare i soprusi che danneggiano le persone colpite da questo destino crudele, persone come Aurelio Nicolodi, che ha saputo trasformare la cecità in un'opportunità, in un modo nuovo per guardare le cose, ha seminato una pianta i cui frutti continuano a crescere copiosi a difesa dei più deboli, perché questo è un mondo molto spietato con i più deboli. grandi colpi d'ala, ed è bello quando un colpo d'ala va a vantaggio di altre persone. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalateci via mail al fatto che gabbiano@radio24.it, se anche voi conoscete delle storie che volete che noi si racconti, oppure venite a cercarmi, insomma, nei miei social, nei nostri social, Facebook, Twitter, insomma, sapete che se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. I never cared much for moonlit skies.